vita. Okay? Abbiamo incontrato non soltanto il Dharma, ma il Dharma Mahayana. Siamo anche presi sotto la cura cioè, maestri spirituali, quindi siamo estremamente fortunati da questo punto di vista. Okay? Però questa fortuna che abbiamo, che non durerà a lungo, perché comunque dobbiamo andarsene di questa vita. Okay? Questo è anche nel migliore dei casi, se guardiamo un po' qui che abbiamo, vediamo che al massimo avremo ancora 30 anni, okay? 30 anni di vita, 30-40 anni di vita. Per i più giovani cioè, si togliamo la malattia, l'invecchiamento, cioè il periodo di vecchiaia dove la mente non è più chiara, cioè si togliamo il lavoro che dobbiamo fare, prendersi cura del corpo, eccetera, eccetera. Alla fine ci mettiamo tutti insieme anche su una vita di 30 anni, avremo qua 5 anni da dedicare alla pratica, non di più. Quindi dobbiamo capire che questa esistenza comunque se ne va a una grande velocità e non c'è modo di. Cioè ogni istante non lo possiamo recuperare, istante dopo istante, ogni respiro la nostra vita si raccorce, come si dice in italiano? Si accorce, no? Quindi non dobbiamo cioè, perdere troppo tempo, okay? Poi bisogna anche a pensare che il momento della morte non sappiamo quando può sorgere, okay? Non c'è in questa dimensione umana, non c'è non è determinato, non è determinato nel senso i giovani possono andarsene prima degli anziani, quelli in buona salute prima di quelli che hanno una salute precaria, non c'è nessun modo per dire che quanto tempo abbiamo, no? Facciamo progetti, no? Rimettiamo sempre le cose a domani o all'anno prossimo, eccetera, ma non sappiamo se domani saremo ancora in vita, no? Non sappiamo neanche, cioè, non c'è certezza rispetto a questo. E dopo, quindi, dovrebbe riflettere che se questa vita si finisce nello stato attuale delle cose, è impossibile che noi ritroviamo quel tipo di esistenza, è completamente impossibile. Se vediamo come passiamo la giornata, la propria attività mentale, le azioni accumulate così solo nell'arco di questa vita, ma anche da tempo senza inizio, vediamo che la causa sostanziale per le vite cioè, elevate come queste, okay, è l'etica pura. Quindi l'etica pura significa non soltanto il non danneggiare gli altri, ma avere una mente libera di afflizione mentale. Questo è estremamente difficile di passare anche un'ora, ok? Privi di afflizione mentale. Quindi è molto difficile, quindi dobbiamo pensare a qual è l'entità delle esistenze sfortunate, vedere che genera una certa di timore rispetto a questo, no? E vedere chi effettivamente se c'è una possibilità di proteggersi da questo. Vediamo che il Buddha che ha percorso il sentiero, che ha utilizzato le qualità, che ha abbandonato ciò che deve essere abbandonato, che è passato al di là della paura, dell'esistenza ciclica, è effettivamente in grado di aiutarci e proteggersi da questa esperienza tramite, diciamo, il suo insegnamento e dal nostro punto di vista, quindi la messa in pratica di questo insegnamento, possiamo evitare esperienze sfortunate nel futuro, okay? E quindi ottenere un tipo di esistenza elevata. Però dobbiamo capire anche il carattere insoddisfacente anche di un'esperienza come quella umana. Lo vediamo nella vita di tutti i giorni, che questa esistenza umana è pervasa di difficoltà, di problemi, di sofferenze fisiche e mentali, no? Queste concettualizzazioni, il fatto di avere una mente che non è sotto il nostro controllo, okay? Che ci crea molte difficoltà. Quindi vediamo che anche le esperienze elevate, presentate come elevate, sono comunque insoddisfacenti dal punto di vista dell'esperienza, ma anche dal punto di vista del fatto che sono impermanente. Una volta che il karma che ci ha proiettato si esaurisce, rimaniamo, cioè le mani vuote e basta riscendere. Quindi dobbiamo vedere che è quello che quindi è generare quindi un sentimento non soltanto di rinuncia rispetto alla sofferenza dei stati sfortunati, ma anche rispetto rispetto all'esistenza in generale, quindi in generale questa mente dell'emersione definita. Però dobbiamo vedere anche il carattere molto limitato di questa mente, di questa attitudine, prendendo in considerazione tutti gli altri esseri senzienti, no? Cioè il desiderare ottenere la liberazione è come essere imprigionato con gli altri, no? Persone care, familiari, eccetera, e fare i piani per andarsene da solo e lasciare gli altri dietro, quindi è molto, carattere molto limitato. Prendere in considerazione che quindi gli altri sono esattamente come noi, hanno quest'unico desiderio della felicità, non hanno mai abbastanza felicità esattamente come noi, non abbiamo mai abbastanza felicità, non desideriamo la minima sofferenza, neanche all'interno dei nostri sogni ci piace la sofferenza, quindi per gli altri è esattamente la stessa cosa. Quindi dovremmo cercare di allargare questa motivazione, prendere in considerazione anche gli altri e pensare che comunque noi siamo in società ciclica da tempi senza inizio e quindi anche abbiamo avuto tutto un sacco di relazioni diverse, di amicizie, di beneficio mutuale, di gentilezza, di scambio con tutti gli altri esseri e quindi adesso noi abbiamo questa opportunità, no? Questa preziosa rinascita umana, abbiamo incontrato il Dharma, quindi possiamo fare qualcosa di estremamente significativo della nostra vita, possiamo fare qualcosa di estremamente significativo, possiamo mettere in pratica e sviluppare delle qualità, abbandonare dei difetti e fare che questa mente diventi una fonte di beneficio per gli altri e in quel modo ricambiare questa gentilezza, questa cura. Questa felicità che ci hanno dato gli altri nel passato, okay? Quindi dovremmo cercare di generare amore, compassione all'incontro degli altri e vedere che nello stato attuale comunque che la possibilità, questo potenziale completo, no? Che ci permette di veramente essere di un aiuto ultimo per gli altri, esiste nello stato di Buddha, okay? Quindi si dovrebbe cercare di generare alla mente di Bodhicitta, nell'entità del pensiero, posso io ottenere lo stato di Buddha per beneficio di tutti gli esseri senzienti. Che questa deve essere la motivazione con la quale noi facciamo le nostre varie cose nella giornata, in particolare quando veniamo in questo posto e dobbiamo cercare anche di mantenere questa motivazione lungo queste sessioni. Questo è il modo di pensare. Ok, perciò che ci riguarda, quindi noi siamo quindi entrato nella contemplazione dell'essere di motivazione superiore, quindi il grande scopo, quindi che è caratterizzata, l'entrata nel grande scopo è caratterizzata dalla generazione della mente di bodhicitta spontaneo, che okay? Quando generiamo questa mente di bodhicitta spontanea, okay, allora simultaneamente diventiamo un bodhisattva, un figlio del conquistatore, che okay, il bodhisattva, entriamo nel sentiero dell'accumulazione Mahayana. Quindi incominciamo il sentiero vero e proprio per l'illuminazione, per ottenere lo stato di Buddha. Okay? Quindi avremo il sentiero dell'accumulazione da percorrere, okay, che è caratterizzato da un grande accumulo di insegnamenti, okay? Bodhisattva, una grande sete per l'insegnamento. E dove quindi il Bodhisattva pratica le sei perfezioni per cercare di accumulare le cause per il corpo e la mente del Buddha, okay? Cerca anche di beneficiare gli altri il più possibile tramite i quattro mezzi di avvicinare i discepoli, e principalmente caratterizzato il sentiero dell'accumulazione, quindi ha tre stadi, un stadio piccolo, medio e grande, è caratterizzato da una meditazione alla vacuità, principalmente dal calmo dimorare, quindi una mente del calmo dimorare che contempla la vacuità. Dopo ci sarà il sentiero della preparazione, il sentiero della preparazione, il Bodhisattva entra su questo sentiero quando è in grado di associare la meditazione sulla vacuità non più con una mente del calmo dimorare, ma con un'unione del calmo dimorare e di una mente analitica, di grande capacità di penetrazione, no? Quando è in grado di meditare sulla vacuità con l'unione del calmo dimorante e visione speciale, entra sul sentiero della preparazione. Il sentiero della preparazione ha quattro livelli: livello calore, livello vetta, livello pazienza e qualità mondana suprema. E quindi su questo sentiero il Bodhisattva quindi si sforza, medita molto sulla vacuità, e questo si chiama sentiero della preparazione perché ci prepara alla percezione iniziale diretta della vacuità che avviene sul sentiero della visione. E quindi il Bodhisattva percorre questi vari stadi, piano piano le percezioni dualistiche svaniscono, piano piano, quindi le percezioni dualistiche sono la percezione, per esempio, di un oggetto, di un soggetto che sta meditando, ok? E a un certo punto, quindi quando la mente è abbastanza potenzializzata tramite l'accumulo di pratiche delle sei perfezioni, quindi la mente riesce a penetrare, a mescolarsi in un modo non duale con la vacuità, quindi non c'è più questa percezione del soggetto, dell'oggetto, che la mente non realizza più la vacuità tramite una comprensione intellettuale, ma la realizza direttamente. Allora questo è il sentiero della visione. A quel momento il Bodhisattva diventa un'aria, e a quel momento si incominciano a abbandonare quello che vengono chiamato le afflizioni, okay? Le afflizioni, quindi le afflizioni sono le oscurazioni alla liberazione, quindi il sentiero della visione elimina ciò che è intellettualmente acquisito, e dopodiché c'è il sentiero della meditazione con i 10 tereni, che elimina fino all'ottavo tereno quelle innate, e dopo sull'ottavo, il nono e il decimo tereno vengono eliminate le impronte lasciate da queste afflizioni, no? Le impronte che creano le apparenze dualistiche, no? Ci sono due oggetti, il Bodhisattva ha due oggetti di abbandono, ha l'oscurazione alla liberazione, o le oscurazioni afflittive che impediscono, che sono delle mente, no? Per esempio la concezione di vera esistenza con le afflizioni come attaccamento, avversione, che okay? Questo va eliminato sul sentiero della visione e sul sentiero della meditazione fino all'ottavo tereno. E una volta che questo è stato eliminato, rimane un'impronte, delle impronte molto sottili, no? Un po' come quando abbiamo dell'aglio, se togliamo l'aglio rimane l'odore, no? E questo creano queste apparenze dualistiche, le apparenze di esistenza del proprio lato. E questo impedisce la percezione delle due verità simultaneamente. Okay? Quindi questo va eliminato dal Bodhisattva gli ultimi 3 tereni. E quando il Bodhisattva quindi arriva alla fine del decimo tereno, che genera questo equilibrio meditativo che si chiama l'equilibrio meditativo simile al Vajra, che elimina la più sottile delle apparenze dualistiche, l'istante dopo è lo stato di Buddha. E questa è, diciamo, la carriera del Bodhisattva. Quindi dal punto di vista del sutra, quindi quando si incomincia, quando si entra sul sentiero dell'accumulazione fino all'ottenimento dello stato di Buddha, sono 3 eoni incommensurabili. Okay? Quindi un eone incommensurabile è 10 potenza, dice così, potenza 59, 0 anni. Quindi cioè, lungo, il tempo è molto lungo. Okay? Non si può neanche pronunciare quella cifra. E 10 con 60 zero dietro, 3 volte così. Questo è un eone incommensurabile. Quindi il primo eone incommensurabile, il Bodhisattva lo passa sul sentiero della fino al sentiero della visione, un eone incommensurabile. Fino all'ottavo tereno, un altro eone incommensurabile. E fino allo stato quindi dall'ottavo al dieci, alla fine del decimo tereno, un altro eone incommensurabile. Ok? Quindi questa interpretazione dei 3 eoni incommensurabile in certi testi la presentano non troppo come un periodo di tempo vero e proprio, ma si dice che bisogna accumulare meriti e saggezza che è equivalente a ciò che può essere accumulato in 3 eoni incommensurabile. Okay? Quindi questa lascia lo spazio all'interpretazione tantrica di questi 3 eoni incommensurabili. Quindi questa è la carriera del Bodhisattva che percorre il sutra, il veicolo del sutra. Okay? Buddha Shakyamuni ha percorso questo sentiero. Okay? Allora normalmente, questi certi di voi l'hanno ascoltato stamattina, che lo stato di Buddha non può essere ottenuto soltanto col veicolo del Sutra. È impossibile. Al massimo vi può portare fino al decimo terreno. Dopo, necessariamente, il praticante deve entrare nel veicolo del Tantra, perché deve manifestare una mente più sottile per attaccarsi ai livelli estremamente sottili di oscurazione. Solo questa mente molto sottile in grado ha il potere per eliminare quel livello di afflizione. Quindi Buddha Shakyamuni lui ha scelto questo sentiero, no? Tre Oni e dopo il Tantra. Però ci sono altri che dovuto al loro a predisposizione, karma, eccetera, generano la mente di Bodhicitta e simultaneamente, no, entrano anche nel veicolo del Tantra. E quindi a quel punto il sentiero è molto più breve, si dice che una persona estremamente acuta, di facoltà molto acuti, quindi da quando ha generato la mente di Bodhicitta, si parla anche, quindi un po' di sattva, di facoltà acuta, può ottenere l'illuminazione in una breve vita col veicolo del Tantra, no? Cioè, nei testi dicono anche in 3 anni e 3 fasi lunare, 3 anni, 3 fasi lunare, però diciamo in una vita, ma quello di facoltà media in 7 vite, okay? Quello di facoltà cioè, di meno facoltà in 16 esistenze, diciamo se, si mantiene bene i suoi voti, si mantiene puri i voti. Questo è molto difficile, quindi sicuramente sarà per noi più di 16. Quindi, però, quindi, noi abbiamo anche questa fortuna, no? Che abbiamo incontrato il Dharma completo. Nel senso che noi abbiamo questa connessione con la tradizione del buddismo tibetano, che è l'unica tradizione dove i tre veicoli, okay? Cioè i due veicoli, mettiamola così, i due sistemi, Sutra e Tantra, all'interno del Sutra i due veicoli, cioè Hinayana e Mahayana, all'interno del Tantra i quattro classi sono studiate, praticate e mantenuti. C'è cioè una tradizione vivente, è l'unico sistema, quindi abbiamo una fortuna enorme e quindi dobbiamo cercare di sfruttare questa fortuna che abbiamo, perché ve lo dico, c'è cioè la prossima vita molto difficile, molto molto difficile, e quindi se vogliamo, quindi adesso stiamo studiando il Lamrim. Qual è lo scopo dell'Amrim? Lo scopo dell'Amrim non ci può portare l'illuminazione. L'abbiamo capito, non ci può portare l'illuminazione. Quello è lo scopo dell'Amrim, è far di noi dei praticanti adatti a entrare nel veicolo del Tantra. Questo è il suo scopo, okay? Quindi tramite le contemplazioni sui primi due scopi, generiamo una mente di emersione definitiva, okay? E tramite la contemplazione sul grande scopo diventiamo dei veicoli adatti a ascoltare il Mahayana, quindi a ascoltare, a ricevere, a praticare anche il veicolo del Tantra. Però, cioè, quindi questo significa che da nostra parte dobbiamo anche impegnarci, altrimenti cioè, la cosa scivola dalle nostre mani. Okay? Quindi, ecco, tutto lì. Quindi sì, ecco, cioè, dal punto di vista del Sutra, quindi abbiamo tre oni incommensurabile, dal punto di vista del Tantra, il sentiero ha la capacità a portarci al risultato in una breve vite di questi tempi degenerati. Ha la capacità, il sentiero ha la capacità. Se noi abbiamo dopo la capacità di praticare a questo livello, è un'altra storia. Ok, quindi lo sviluppo della mente di Bodhicitta, abbiamo visto la definizione, abbiamo visto i benefici, abbiamo visto i vari tipi di Bodhicitta, cioè, i due tipi di Bodhicitta, cioè la Bodhicitta dell'impegno, la Bodhicitta dell'aspirazione, abbiamo visto le tre menti per generare la mente di Bodhicitta, le tre menti quali sono? Tre menti di Bodhicitta, non è nel testo. Abbiamo la Bodhicitta simile al re, la Bodhicitta simile al navigatore, la Bodhicitta simile al pastore. Okay? Abbiamo visto i quattro livelli di Bodhicitta, la Bodhicitta che esiste a livello della fede, la Bodhicitta che esiste a livello del pensiero puro. La bodhicitta che esiste sui terreni puri e dopo la bodhicitta completamente liberata dell'oscurazione. Okay? E abbiamo visto dopo le varie cause per generare la bodhicitta. Okay? Le varie cause, abbiamo visto le quattro circostanze, le quattro cause e i quattro poteri. abbiamo visto anche i benefici dello sviluppo della mente di Bodhicitta, che sono 10. E adesso quindi entriamo nei stadi effettivo dell'addestramento nella mente di Bodhicitta, e per questo avremo quattro suddivisioni. Avremo le 7 cose, cioè 7 cose un effetto, cioè l'istruzione delle 6 case un effetto, scusate, l'istruzione delle 6 case un effetto, l'istruzione, cioè il metodo di equalizzare, equalizzare e cambiare se stesso con gli altri, ok? Il metodo combinato, che associa i due sistemi, e avremo dopo l'addestramento mentale. Questo finisce, e dopo avremo calmo di morale e visione speciale, e avremo finito la presentazione dei stadi del sentiero. Quindi adesso entriamo il metodo di 6 cause in effetto. Quindi il metodo di 6 cose in effetto. Abbiamo visto, no? Cioè, l'ho appena menzionato, sono due lineaggi, no? Due metodi per generare la mente di Bodhicitta. 6 cause in effetto e cambiare se stesso con gli altri. Se guardiamo il campo di rifugio qui, vi ricordate, l'abbiamo già visto, abbiamo due lineaggi, no? Il lineaggio del vasto, che è ciò che è tutto alla destra del Buddha, okay? E il lineaggio del profondo, che è alla sinistra, okay? Quindi alla sommità di questo, cioè il Buddha Shakyamuni, questo significa Buddha Shakyamuni essendo mezzo, perché le istruzioni cioè provengono da lui. Poi, in dipendenza dalle predisposizioni delle persone, ha dato istruzioni varie. Quindi il lineaggio dei 6 cause in effetto è principalmente stato dato ai detentori delle attività vaste, quindi a Buddha Maitreya, ok? Poi abbiamo Asanga, Vasubandhu, Aribhadra, poi Atisha, l'Amazzon Kappa, e dopo, quindi tutti questo insegnamento è arrivato tramite i vari lama del lineaggio fino a noi. Okay? E invece l'altro metodo, considerato un po' più difficile da praticare, quindi per persone che hanno facoltà un po' più acute, è stato quindi trasmesso da Buddha Shakyamuni a Manjushri. Okay? Manjushri, Nagarjuna, i suoi cinque discepoli, poi Asanga, scusate, Shantideva, okay? Shantideva principalmente, e dopo Atisha e l'Amazon Kappa, e poi i maestri fino a noi oggi. Quindi anche questo sistema tibetano combina i due metodi. Quindi 6 cause in effetto, perché abbiamo sì, quindi abbiamo 6 cause. Che sono divisi in due gruppi. Okay? Abbiamo 3 pratiche che ci permettono di vedere tutti gli esseri come attraente, come piacevole, come attraente. E abbiamo 3 cause che invece, quindi queste sono un po' preliminari. Infatti abbiamo le altre 3 che vengono dopo, che costituiscono la produzione effettiva della mente di Bodhicitta. E abbiamo un effetto della mente di Bodhicitta. Ok? Quindi le 3 cause che ci permettono, che hanno come scopo di farci vedere tutti gli esseri come attraente, piacevole, no? Sono il riconoscere tutti gli esseri senzienti come la propria madre. Prima. Allora c'è un ordine. Secondo, il ricordarci della loro gentilezza. 3, ricambiare, generare il desiderio di ricambiare questa gentilezza. Ok? Poi abbiamo le 3 cause effettive, quindi dopo di questo c'è la generazione del grande amore, l'amore incommensurabile. Dopo di questo abbiamo la generazione della grande compassione, tema che ha delle caratteristiche particolari, la grande compassione. Dopo di questo avremo l'intenzione superiore, l'intenzione superiore, immacolata, e questo fa sorgere come risultato la mente di Bodhicitta. E queste sono le 6 cause, un effetto. E come prima abbiamo un preliminare che non è menzionato, okay? E il preliminare è lo sviluppo dell'equanimità. Quindi stasera vedremo lo sviluppo dell'equanimità. È molto importante lo sviluppo dell'equanimità, e non va, come si dice, non va neglected, si dice Tralasciato. tralasciato, sconsiderato, okay? Svalutato. perché è il fondamento. Senza equanimità è impossibile che gli altri stadi vengano generati. È come, non so, perché no, non c'è una base stabile, ecco, non c'è una base stabile per far sorgere i vari altri livelli. È come voler costruire una casa su un terreno che si muove. Cioè, è impossibile, tutta la cosa crolla alla prima scossa. Quindi lo sviluppo dell'equanimità. Allora, sono varie vi presenterò due metodi per sviluppare la mente di equanimità, ok? Uno no, non è comune, no, non è comune. Quindi prima incominciamo con questo equanimità. Allora, equanimità nel contesto del buddismo di solito sorge in varie situazioni. Abbiamo la sensazione di equanimità, ok? Abbiamo nel calmo dimora l'applicazione di equanimità, ok? Qui si tratta di un sentimento, okay? Di un sentimento di equanimità. Di solito noi abbiamo tre attitudini in relazione a tre gruppi di persone o tre tipologie di persone. Sono le persone verso le quali ci apprendiamo riteniamo come amici, okay? Amici, i parenti, i genitori, eccetera. Quindi con queste persone abbiamo attaccamento. Su queste persone abbiamo attaccamento e quindi naturalmente il desiderio di beneficiare queste persone, di essere di aiuto a queste persone. Poi abbiamo un'altra categoria di persone che riteniamo come li chiameremo nemici, anche se è un po' esagerato, però diciamo sono le persone che non troviamo così attraente. Che quando entrano nel nostro spazio c'è uno sconforto, persone con le quali abbiamo le difficoltà a comunicare, basta questo, difficoltà di comunicare, non ci piace andare in giro con queste persone, cioè, condividere un pasto con queste persone, eccetera. Quindi questo è anche se non abbiamo. Quindi abbiamo una certa ostilità o avversione, un livello di avversione per queste persone. E sicuramente il desiderio di non aiutarle, di non beneficiare queste persone. E poi c'è una terza categoria di persone che sono le persone verso le quali siamo indifferenti, che non ci hanno né beneficiato né danneggiato, quindi siamo completamente indifferenti, ok? Quindi la prima categoria di persone, più andiamo al loro contatto in generale, quindi più quando le vediamo siamo agitati, ok? Siamo agitati, la mente genera ancora più attaccamento e alla fine della storia più sofferenza per noi. Quindi c'era. E invece per quello che hanno, insomma, abbiamo difficoltà, quindi ogni volta che incontriamo queste persone generiamo ancora più avversione, critiche, e alla fine c'è più sofferenza viene generata per noi, la nostra mente anche qui è agitata, perturbata, si aggrava, si dice così? La nostra mente si aggrava, ok? Sia nel lato dell'attaccamento con gli amici, sia nel lato dell'avversione con gli altri. E poi invece all'incontro degli altri, visto che non generiamo né avversione né attaccamento, la mente dimora in uno stato neutro, che non è l'equanimità, okay? È uno stato neutro, non ha né attaccamento né avversione, e quindi questo favorisce lo sviluppo dell'ignoranza. Favorisce lo sviluppo dell'ignoranza. E quindi finché la nostra mente oscilla tra queste varie attitudini, è impossibile generarla. L'amore, la compassione, la mente di bodhicitta. Infatti, questa parzialità che abbiamo verso gruppi di persone è un grosso ostacolo, è un grosso ostacolo, cioè è l'ostacolo maggiore alla generazione dell'amore e della compassione. Okay? Quindi, se vogliamo un giorno generare la mente di bodhicitta, dobbiamo incominciare a generare, cioè a uguagliare la nostra attitudine all'incontro di questi vari gruppi di persone. Perché hai detto ignoranza nelle persone prima? Ok, perché visto che la mente non non ha né attaccamento né avversione, non possiamo metterla così, non si impegna in uno stato di riflessione, no? Non stimola una riflessione, un'introspezione. Non indifferenza. Come? Il termine è ignoranza, non Ho indifferenza. detto ignoranza, sì, Sì, ecco. ignoranza, perché questo stato favorisce il continuum di ignoranza rispetto al modo di esistere delle cose. Nel senso che, dovuta a questa neutralità, dovuta a questa indifferenza all'incontro degli altri, no? Non riesco stasera. Non c'è uno stimolo, nel senso, non c'è un input per una presa di coscienza rispetto a come esistono le cose, non viene stimolata un'investigazione. Questo stato di sensazione neutro non risveglia la mente, no? Non la spinge a una ricerca, alla comprensione, a una cosa. Cioè, stasera mi viene così, la prossima volta ne dico di più. Comunque, quest'indifferenza favorisce uno stato di ignoranza. Favorisce uno stato di ignoranza. L'avversione, l'attaccamento, perché l'avversione e l'attaccamento non favoriscono uno stato di ignoranza? Perché l'avversione è facile di realizzare che nell'entità della sofferenza. Quindi una persona a un certo punto è più facile avere una presa di coscienza rispetto all'avversione, che rispetto a una sensazione neutra. Quando c'è una sensazione neutra, l'unico desiderio che abbiamo è che perdura questa sensazione neutra. Invece la sensazione di avversione, quando abbiamo dell'avversione, abbiamo il desiderio di separarsi di questa cosa, cioè in questa direzione. Poi bisogna Noi pensarci. possiamo dire che anche su questo sentiero si fa uso sia del desiderio sia dell'avversione per progredire. Dunque non si può basare su No, questa non si fa separazione. usa, non si fa usa perché si cerca di eliminarle. E comunque anche nel Tantra, quando viene detto che si fa usa dell'afflizione, non è Per vero che si fa eliminarla. usa dell'afflizione, si fa usa dell'energia che muove l'afflizione, ma l'afflizione non viene assolutamente utilizzata, l'afflizione è un oggetto di abbandono. Anche sì, altrimenti se dovremmo che i Buddha Sì, sì. non abbandonano Oh, no, no, no, qui, qui, l'afflizione. no, no, no, non è, no, questo sentiero. Nel sutra, no? Si lavora con le afflizioni cioè a mano col coltello, nel senso che si oppone all'afflizione direttamente, senza utilizzare un altro mezzo più abile, che richiede altre capacità. Ci ritorneremo su questa cosa perché l'equanimità o perché l'indifferenza favorisce la confusione o l'ignoranza. Ci ritorneremo. Comunque, come si fa per sviluppare equanimità? Ok? Quindi dobbiamo prendere in considerazione tre tipi prendere in considerazione quindi tre tipi di persone. Allora, di fronte a noi dobbiamo avere tre gruppi. Subito di fronte a noi abbiamo le persone verso le quali siamo indifferenti. Okay? Visualizziamo uno o due persone, comunque delle persone verso le quali siamo indifferenti, basta neanche una. Ok? Alla nostra sinistra mettiamo gli amici, un amico, un parente verso il quale abbiamo attaccamento, no? Il desiderio di beneficiare, e alla destra mettiamo qualcuno verso il quale abbiamo avversione. Ok? Il primo lavoro, quindi questo si fa a livello dell'immaginazione, è il primo lavoro, quindi incominciamo con quelli verso i quali abbiamo delle sensazioni. Neutre, ok? Sulle quali abbiamo delle sensazioni neutre e si riflette, quindi che questa persona dobbiamo cercare, quindi lo scopo è di cercare di stabilire una mente equanima rispetto a questa persona per la quale abbiamo indifferenza. Ripeto, questa mente equanima non significa indifferenza, non significa semplicemente qualsiasi il suo comportamento, abbiamo il desiderio di beneficiare questa persona, ok? Va più in questa considerazione. Non cerchiamo di eliminare anche la nozione di amici o di nemici. Non è questo che cerchiamo di eliminare, perché questo si basa sulla percezione valida. Ci sono delle persone che ci sono di beneficio e altre che ci sono di danno o che cercano di danneggiarci. Okay? E questo è una realtà, quindi non è questo che cerchiamo di eliminare. Quello che cerchiamo di eliminare è l'attitudine non cioè, come si dice, biasimata, si dice così? Come si dice? Un'attitudine parziale. È l'attitudine parziale che cerchiamo di eliminare. Non cerchiamo di eliminare la nozione di amici o di nemici. Quindi, se prendiamo in considerazione l'amico, quindi prima dobbiamo visualizzare questo amico e vedere che tipo di sensazione sorge quando portiamo a questa persona la nostra mente. Prima va osservato la sensazione. E quindi si chiede perché abbiamo questa sensazione, perché abbiamo questo desiderio, perché ci sentiamo vicino a questa persona. E di solito quello che vediamo è perché questa persona ci piace, perché ci piace, perché ci è di beneficio, ci dà delle cose diciamo, ci lode, okay? O ci apprezza. Okay? O certe volte anche basta che la pensa come noi. Okay. Basta che la pensa come noi. Allora questa basta per far entrare questa persona nella categoria di amico. Okay, amico. E abbiamo il desiderio quindi di beneficiare questa persona. Quindi si dovrebbe quindi vedere che questa attitudine è completamente superficiale, basato proprio Uno ricevere è un'attitudine molto centrata su di sé, no? In un certo modo. E dopo guardiamo un po' l'attitudine che abbiamo verso una persona con la quale abbiamo difficoltà, no? E vediamo che abbiamo questa mente di avversione semplicemente perché questa persona noi non piacciamo, questa persona non ci lode, questa persona non ci apprezza, non ci dà niente. O certe volte ci può anche criticare, o questa persona semplicemente non la pensa come noi. Non la pensa come noi. E questo ci basta per avere avversione e non voler beneficiarlo e anche danneggiare fino a un certo livello. E vediamo che le persone verso le quali abbiamo indifferenza sono persone che non ci fanno niente di positivo al nostro incontro e non fanno niente di negativo al nostro incontro. Okay? Quindi E adesso, quindi questa è abbiamo osservato queste varie sensazioni e abbiamo anche capito da dove provengono queste sensazioni, no? Il perché abbiamo quel tipo di sensazione, di attitudine verso uno o l'altro. Questo è importante che lo fate. E adesso cerchiamo di prendere in considerazione, per esempio, l'amico. Queste tre attitudini, queste tre sensazioni, no? Di amicizia, nozione di amicizia o di avversione verso il nemico, è focalizzato in un tempo particolare. Okay? Abbiamo focalizzato questo in un tempo particolare, perché comunque sappiamo che il samsara è molto incerto, no? Quindi l'amico basta che abbiamo una discussione un po' agitata un giorno e questa persona cambia di categoria, no? Può cambiare molto velocemente di categoria. E anche il nemico, basta che un giorno ci dice qualcosa di piacevole, okay? E questo cade nella categoria di amici, no? È qualcosa di estremamente superficiale come attitudine, di superficiale. È qualcosa che è molto incerto. Che cambia molto, molto facilmente. E quindi questa percezione è come sigillata nell'istante, in circostanze, istante molto particolare. E vediamo che tutto può essere, cioè le persone possono cambiarsi da una categoria all'altra molto velocemente. Okay? Quindi non c'è certezza, perché in questa vita abbiamo avuto questa esperienza, no? Abbiamo avuto degli amici che sono passati nella categoria dei nemici. E abbiamo anche avuto dei nemici che sono passati nella categoria degli amici. Anche all'interno di una famiglia succedono queste cose. Quindi a quel momento dobbiamo capire che se prendiamo in considerazione gli amici, dobbiamo pensare che quindi non c'è ragione, non c'è nessuna ragione per essere così attaccati a queste persone, e voler esclusivamente beneficiare queste persone. Non c'è nessuna ragione, perché tutto è fluttuante. Tutto è fluttuante. Queste persone domani possono diventarne nemici. Okay? Non c'è nessuna ragione. Poi prendiamo in considerazione tutte le vite da tempi senza inizio, no? In vite passate, queste persone che oggi teniamo come molto cari, no? Certi anche che non possiamo neanche passare una giornata senza vederli, in vite passate erano i nostri peggiori nemici. Ci hanno fatto di tutto, ogni tipo di danni a noi stessi, ai nostri cari, alle nostre proprietà, ci hanno ucciso, ci hanno rubati, ci hanno fatto di tutto. E adesso sono proprio amici, no? Ci darebbe senza. Cioè, vediamo che non c'è nessuna base valida per considerare queste persone come amici esclusive e beneficiare solo queste persone. Poi si prende in considerazione i nemici e vediamo che anche loro quindi possono fluttuare all'interno di questa vita, possono fluttuare, basta delle parole, basta un gesto, okay? E dobbiamo prendere in considerazione che in vite passate queste persone sono state le proprie madre, fratelli, sorelle, amici, compagni, mogli, mariti, ok? Non potevamo essere separati da queste persone e oggi ci appaiono come il peggiore delle persone, le vogliamo assolutamente aiutare, le vogliamo anche danneggiare. Vediamo che è completamente ridicola questa situazione, se la prendiamo, prendiamo in considerazione il grande panorama, no? Invece di essere focalizzate su una situazione e un momento particolare, se invece cerchiamo di allargare la nostra perspettiva, vediamo che abbiamo le stesse relazioni con tutte le persone, no? Quindi di chi dobbiamo sentirsi vicino, no? Una persona che ieri ci danneggiava e oggi ci fa dei regali, o una persona che oggi ci fa dei regali e domani ci danneggia. Qual è veramente, verso quel tipo di persona dobbiamo sentirsi vicino di un altro distante? Vediamo che non c'è nessuna base per questo, no? Ma per esempio, questo altrimenti sarebbe come far delle differenze. Per esempio, oggi abbiamo Paolo, cioè, 3 settimane fa Paolo mi dava qualcosa e oggi ho avuto, cioè, Roberto che mi ha dato qualcosa e considero Roberto più caro perché nel tempo è più vicino. Mi ha beneficiato nel tempo, il suo beneficio è stato più ravvicinato nel tempo. Quindi è completamente ridicolo questo approccio. Quindi dobbiamo in quel modo, no? Riflettendo in quel modo, prendendo questi vari gruppi uno dopo l'altro, dobbiamo stabilire quindi prima equanimità con le persone, con gli amici, ok? Poi si stabilisce l'equanimità con le persone che sono indifferenti e dopo si stabilisce l'equanimità con le persone che ci hanno danneggiato, no? E dopo si stabilisce l'equanimità rispetto a tutti gli altri esseri senzienti. O cioè nell'Amrim Shenmu, no? Lamazung Gamba dice che prima stabilire l'equanimità rispetto, una mente equanima rispetti alle persone che non ci hanno né aiutato né beneficiato, cioè né beneficiato né danneggiato, dopo gli amici, dopo i nemici, ok? E dopo espandere a tutti gli esseri senzienti. Okay? Si fa sempre in gruppo così, no? Quindi possiamo guardare le cose da due punti di vista. Il punto di vista degli esseri e il nostro punto di vista. Adesso abbiamo fatto il nostro punto di vista, no? Il nostro punto di vista è che questi esseri hanno tutti, no? Sia i nemici, sia gli amici, sia quelli che sono indifferenti, in vite passate abbiamo tutti avuti una relazione molto basata sull'amore, la gentilezza, sono tutti stati cari a ai nostri confronti, tutti gli esseri senza eccezione. Il fatto che in questa vita si manifestano in un altro modo, questo sono apparenze dovute a condizioni che cambiano, condizioni superficiali che cambiano. Quindi questo è il punto di vista nostro. Poi abbiamo il punto di vista degli esseri da prendere in considerazione, no? Tutti gli esseri sono tutti uguali, sia gli amici, i nemici, che alle persone verso le quali siamo indifferenti, sono tutti uguali nel senso che ricercano la felicità. Ricercano la felicità e l'unica cosa che incontrano sono le difficoltà, sofferenze. Quindi dal loro punto di vista sono tutti uguali. No? E il fatto di voler discriminare tra queste varie classi di essere è come per esempio, no? Una persona che si prende cura della salute degli altri, no? Non discrimina le persone che sono ammalate, no? Quello sia, lo curo, no? Questo no, perché non mi piace, no? Non fa quel tipo di discriminazione. Quindi, nello stesso modo, sì, il nostro desiderio, quello che cerchiamo di fare, no? È essere di beneficio agli altri, no? Sviluppare la mente di bodhicitta, eccetera. Quindi, non possiamo discriminare sulla base degli amici e dei nemici, sulla base dell'attaccamento e dell'avversione, perché queste nozioni, attaccamento e avversione, sono delle distorsioni della realtà, sono prodotti dovuti alla mente autogratificante, no? Perché amici, amici e nemici sorgono soltanto rispetto al feedback che riceviamo dagli altri, okay? E questo feedback a certe volte è qualcosa di molto, molto precario, cioè solo il condividere un'idea e questa persona, va bene, diventa il nostro migliore amico. Il giorno dopo questa persona cambia idea e allora sì, subito, no? Cioè, ostilità viene generata nell'incontro di questa persona. Invece questo aspetto da prendere in considerazione è l'altro, effettivamente, che abbiamo avuto tutti i tipi di relazione con gli esseri. Una persona che oggi è il nostro caro, okay, il nostro compagno, la nostra madre, il nostro fratello, il nostro miglior amico, in vite passate era il nostro peggior nemico, ci ha fatto di tutto, no? E oggi è il nostro miglior amico. Stessa cosa, il nostro peggior nemico oggi, nella vita passata, era il nostro miglior amico, la nostra madre. Quindi non c'è nessuna, cioè questo è il samsara, è completamente incerto, no? Tutto cambia, tutto è in movimento. Tutto sorge, tutte queste apparenze sorgono da causa e condizione, quindi non c'è nessuna base valida per discriminare tra persone che vogliamo aiutare, persone che meritano, si dice così, meritano il nostro aiuto e altre invece no. Quindi questa cosa bisogna cercare di uguagliare. Questa è la nostra attitudine, quindi lo scopo di questa meditazione è di diminuire l'attaccamento per gli amici, okay? Diminuire l'avversione e l'ostilità per i nemici, okay? E rispetto alle persone che sono indifferenti, generare il desiderio di beneficiarne anche queste, okay? Quindi generare dell'interesse, capire che queste persone sono anche degne del nostro interesse, no? Quindi dobbiamo cercare di uguagliare questa attitudine all'incontro di questi vari tipi di persone. Altrimenti no, siamo come dei politici. Siamo come dei politici che in funzione delle favore che ricevono, allora aiutano uno, non aiutano l'altro, cioè esattamente di questo livello, altrimenti siamo esattamente di questo livello. Quindi i politici siamo sempre a criticarli perché agiscono in quel modo. Quindi anche noi sì, vediamo che è riflesso, noi facciamo la stessa cosa nella vita di tutti i giorni. Se avevamo del potere avremmo la stessa attitudine, perché funzioniamo con attaccamento e aversione. Manca l'etica, cioè il fatto di voler beneficiare qualcuno non è necessariamente non etico, non necessariamente. Beneficiare no, ma a ricevere dei favori per contraccambiare. Sì, no, questo è un altro discorso, questo. Ok, sì, è giusto comunque. Ok. Quindi questo è un primo metodo per generare queste equanimità. Quindi dobbiamo arrivare a capire che queste discriminazioni, no? Queste etichette che mettiamo, i miei amici, okay? I nemici, è completamente invalida, completamente non valida, okay? Non ha sopporto, no? Non ha sopporto. E quindi diminuire l'attaccamento. Semplicemente il diminuire l'attaccamento e il diminuire l'avversione, questo fa che l'attitudine diventa uguale, Poi altrimenti c'è un altro metodo molto completo, è i 9 cicli, si chiama i 9 cicli dell'equanimità, qui dove le cose vengono guardate non più solo da 2 punti, perché abbiamo fatto 2 punti di vista qui, abbiamo fatto il punto di vista nostro, è il punto di vista dagli altri, quindi dal nostro punto di vista è che abbiamo avuto anche tutti i tipi di relazione con questi esseri, e dal loro punto di vista è che sono tutti uguali, ricercano la felicità e sperimentano difficoltà e sofferenza. E in questa meditazione, in 9 cicli, vediamo tre punti di vista. Okay? Abbiamo il punto di vista degli altri, il punto di vista dei noi stessi, degli altri, è il punto di vista più profondo, qui dal primo punto di vista, visto che comunque abbiamo più o meno sono punti che abbiamo già visto, no? Dobbiamo capire che tutti essi sono uguali perché quindi dal punto di vista degli altri ricercano essere la libertà della sofferenza, no? Anche se non viene chiamata così, no? Liberazione della sofferenza. Comunque è questo che ricerchiamo, perché in tutto quello che facciamo ricerchiamo a evitare tutto ciò che è sfavorevole e a metterci in contatto con tutto ciò che è favorevole o piacevole. Quindi tutti sono uguali anche nel loro desiderio di felicità. Non c'è nessuno che desidera la sofferenza, non esiste quel tipo di essere. Anche comunque se sì, vogliamo qualcuno che ha tendenza a mettersi, a voler andare all'incontro delle difficoltà e della sofferenza, è comunque perché cerca di essere felice, ma in un modo sbagliato. E tutti sono uguali nel fatto che mancano di una felicità genuina, si dice genuina? Autentica. Se guardiamo lo stato, se già abbiamo una comprensione del stato nel quale noi siamo, okay? Vediamo che siamo in uno stato sofferente, precario, dove c'è una grande mancanza anche di felicità, no? Di benessere nella nostra vita, no? Guardate quanti minuti nella giornata possiamo dire: oh, sono veramente felice, in questo istante sono così felice che non ho bisogno di niente. Può capitare, per i praticanti questa cosa può capitare, no? Le persone che fanno, che siano, cioè i praticanti del Dharma, che fanno un po' che mettono le cose, certe cose in pratica, hanno questi momenti, però non durano, sono breve, sono breve. Per persone che non hanno nessuna, non si addestrano in un sentiero spirituale, che non conoscono che non conoscono il Dharma, per estensione, molto difficile che generano quel tipo di pensiero, molto difficile. Quindi c'è una grande mancanza di felicità nella vita degli esseri. Questo è chiaro. Quindi questo è contemplare questi 3 punti e il punto di vista degli altri. Quindi da questo punto di vista tutti sono uguali, gli amici, i nemici, le persone che non ci danneggiano e che non ci siano di beneficio, sono tutti uguali da questo punto di vista. Dal punto di vista dei nostri stessi e degli altri, vediamo che tutti, questi li abbiamo già visti, vediamo che tutti sono stati vicino a noi in vite passate, tutti sono stati vicino a noi. Quindi la gentilezza, l'amore, la gentilezza non è confinata agli amici, la gentilezza e l'amore che abbiamo ricevuto non è esclusivamente, si dice così, confinato agli amici. Dobbiamo contemplare questo punto. Non hai capito? Di solito quello che pensiamo, no? Che la gentilezza è una caratteristica esclusiva degli amici. La gentilezza ai nostri confronti è qualcosa che appartiene a ciò che chiamiamo amici. Non capisci? Sì, la gentilezza che non avrai, non andrai a dire da una persona per la quale hai dell'odio: "Ah, ma questa persona è così gentile." No, perché però invece all'incontro dei tuoi amici avrai questa nozione, okay? In questo contesto. Quindi la caratteristica o la qualità di gentilezza non è confinata alla categoria amici. Perché? Perché le cose cambiano. Cioè, per esempio, in vite passate questa stessa persona, okay, che consideri adesso come il tuo nemico, nella vita passata era la tua madre, per esempio. Esatto. E poi, come l'abbiamo visto, no? Non c'è, possiamo guardare in un altro modo, non c'è nessuna ragione, è completamente ridicolo. Quando varie persone sono ugualmente soggetti alla morte, all'impermanenza, alla sofferenza, ok? Discriminare tra uno o l'altro e andare a tormentare queste persone che sono tutte ugualmente destinate al morire, a soffrire, soggetti all'impermanenza. Questo è come, altrimenti è come delle persone, no, che sono in una, si chiamano green minds, le persone che aspettano per essere giustiziati, no, i condannati a morte, no? E che c'è uno che va a far soffrire l'altro, no? Cioè, è completamente ridicolo come mentalità. Comunque, bisogna riflettere. Le persone che sono soggetti alla stessa fine, alla stessa a destino, no? Che quello, alla stessa sofferenza, quella dell'impermanenza, che essere quello del tormento, non c'è ragione per discriminare tra uno e l'altro. Cioè, io ti aiuto, te non ti aiuto. È come il dottore che andrebbe a discriminare tra due persone che sono soggette a una malattia grave. Ok. E poi c'è il terzo punto di vista, è un po' più, si chiama dal punto di vista ultimo, ma non è veramente dal punto di vista ultimo, è semplicemente qualcosa di un po' più profondo, è un'analisi un po' più profonda rispetto ai due altri. Okay? La prima è di capire che non esiste un vero nemico. Un vero nemico non esiste, perché se questa persona era un vero nemico, sarebbe percepito come nemico da tutti, sarebbe il nemico da tutti. Anche i Buddha, i Bodhisattva lo percepirebbero come un nemico. Questa persona non avrebbe amici. Quindi vediamo che cioè non esiste una persona che ha questa vera caratteristica di essere spiacevole, di essere di danno, di essere, sì, nemico. Non c'è. Come? Però esiste un bambino, però esiste un bambino, Neanche. Buddha, Neanche. quello vuole bene di tutti. Sì, ma non c'è, ma per certe persone non è neanche un amico. Certe persone hanno cercato anche di ucciderlo. Poi dobbiamo capire che ciò che chiamiamo amico o nemico è qualcosa che è mutevole, questo l'abbiamo già visto. E dopo dobbiamo contemplare la natura relativa del nemico e dell'amico. Quindi questi esistono, dobbiamo capire che amico e nemico esistono a livello convenzionale, a livello convenzionale, ma sono mutualmente dipendente come lungo è corto, lungo e corto, sono delle nozioni che esiste in dipendenza mutuale. Non c'è il corto di per sé, è corto in paragone a qualcosa, come grande e piccolo. Come grande e piccolo, non c'è qualcosa di grande di per sé, è grande in relazione a qualcosa. E questa cosa di grande è anche piccola in relazione a un'altra. Quindi è la stessa cosa per le nozioni di amico e di nemico. Esistono in dipendenza mutuale. Quindi non hanno un'esistenza di per sé, non hanno un'esistenza propria, e vera. Esistono solo a livello relativo. Esistono in dipendenza mutuale. Quindi questo significa che una persona è un nemico in relazione a una certa persona, ma questa stessa persona nemico è un amico in relazione a un altro. Quindi questo ci aiuta a desolidificare le nostre, perché di solito mettiamo le persone nelle scatole, perché siano intrinsecamente così, sono veramente delle persone cattive, di danno, sono veramente, questi sono veramente degli amici, eccetera. E il nostro, cioè, anche sì, quando infatti vediamo, no? Queste sono delle attitudini innate che abbiamo, no? A livello spontaneo, innato, abbiamo gli amici e la percezione che abbiamo che questi sono delle vere amici che ci vogliono, cioè. Sono veramente hanno queste qualità di amico, eccetera, no? E gli altri invece sono veramente delle persone, cioè, con delle qualità negative, eccetera. Ma infatti, non è così. Questa stessa persona che noi percepiamo come nemico, per un altro è il suo miglior amico. Stessa cosa per i nostri amici, no? Il nostro miglior amico per un'altra persona è il suo peggior nemico. Quindi è tutto relativo e questo aiuta a sciogliere questa solidificazione, no? Delle caratteristiche che andiamo a mettere sugli altri, no? Quindi abbiamo questa percezione erronea di certi, perché una percezione, sì, questa percezione di un amico o di un nemico che non è relativo, ma intrinseco, intrinseco, di per sé questa persona è qualcuno di aiuto, è di beneficio, è un amico. L'altro invece di per sé, okay, è una persona negativa che è di danno. E questo è questa solidificazione quindi di caratteristiche intrinseche, questo fa che noi generiamo delle emozioni all'incontro delle persone, perché sono percepite come essendo, come esistere in questo modo delle loro proprie caratteristiche. Delle loro proprie caratteristiche, queste persone sono amici, delle loro proprie caratteristiche sono nemici, e quindi dovuta a questo abbiamo una risposta emotiva ai loro confronti. Quindi dobbiamo cercare di andare a dissolvere, a ridurre queste cose in questi vari modi, no? Quindi abbiamo, questo è molto completo questo sistema, no? Dal loro punto di vista, dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista dall'ultimo, vediamo che non ci sono amici e nemici. Allora, da come dici quest'ultima riflessione sul profondo, sembra che davvero si riesca a realizzare l'equanimità solo nel momento in cui uno ha realizzato l'acuità. No, no, no, no, questo è semplicemente un modo di riflettere più completo che include anche una riflessione dal punto di Sulla vista relativo. Ma anche nel testo non presentava questa cosa dal punto di vista ultimo, anche se va in questa direzione, non parla di realizzare la mancanza intrinseca dell'amico, semplicemente che sono relativi. Per noi sono nemici, per un altro è un amico. Semplicemente per desolidificare l'appartenenza o l'etichetta che andiamo a mettere. questa è ignoranza. Che cosa? Ignoranza. Questa. Quale? Questa? Questa definizione qui, mettiamo questa, cioè, Vedo se sì, ho capito bene. Come dicevo prima, no? non è la nozione di amico o di nemico che vogliamo eliminare, perché questa è valida. È valida, nel senso che c'è una condizione convenzionale valida sul comportamento di certe persone, possiamo dire questo è il mio amico, e questo invece è il mio nemico. Questo non è questo che cerchiamo di eliminare qui. Quello che cerchiamo di eliminare è l'attitudine o l'attaccamento e l'avversione rispetto a, dovuto all'attaccamento e all'avversione abbiamo un'attitudine parziale. È l'attitudine parziale che cerchiamo di eliminare. Cerchiamo di uguagliare, equalizzare i nostri sentimenti e le nostre attitudini rispetto a queste varie categorie di persone. Quindi l'ignoranza sarebbe in questo contesto di pensare che questa persona È totalmente nemico, totalmente Questo è comunque in un modo innato, spontaneo, non analitico, è così che le cose ci appaiono. Così. Poi quando c'è un problema si cade dall'alto. Quindi questo è il preliminare. Allora, quindi, e allora c'è anche un guadagno, un grande guadagno di benessere con quel tipo di contemplazione, no? C'è un grande benessere, perché di solito con l'avversione abbiamo capito che la mente di avversione è una mente di sofferenza, nel senso che quando c'è una mente di avversione c'è una sensazione anche di sofferenza. E quando c'è l'attaccamento, anche se c'è una sensazione, diciamo, che è concomitante con una sensazione piacevole, la mente è comunque agitata. Agitata con l'attaccamento. Quindi, e alla fine, comunque, questa mente di attaccamento è colma di aspettative, colma di aspettative. Più l'attaccamento è elevato, più le aspettative sono elevate. E automaticamente è impossibile che tutte le aspettative siano, soddisfatte. È impossibile, questo è completamente impossibile. Quindi automaticamente c'è la sofferenza a un certo punto. E dopo si entra in quello che viene chiamato il fango dei rapporti interpersonali. Mi hai detto questo, mi hai fatto questo, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Questo è dovuto all'attaccamento, alle aspettative. Quindi diminuire questa attitudine di attaccamento, di avversione all'incontro delle varie persone. La mente scivola sulle cose, no? La mente è molto più... È più, non ha queste fluttuazioni, questi alti bassi di avversione, attaccamento, questi momenti di esaltazione, quelli passi dopo a momenti di depressione. C'è la mente più serena, più equanima. Chi di equanima è di serena, tranquilla. Quindi c'è un guadagno anche, cioè, immediato in quel tipo di attitudine, c'è un guadagno immediato. Quindi, e questo è il preliminare. Preliminare. Allora, per queste cose non necessitano di aver sviluppato i livelli di concentrazione per sviluppare l'equanimità. Per le menti di amore, ovviamente si c'è nella concentrazione, la pratica è molto più efficace, ha molto più potere. Però, per esempio, per menti che riguardano l'amore incommensurabile, la grande compassione, la mente di bodhicitta, ci vogliono il migliore è, ovviamente è una mente almeno del calmo dimorare, quindi una mente del rame della forma. Però la bodhicitta può essere sviluppata anche con la mente del rame del desiderio. Però si intende mente del rame del desiderio, si mente una mente focalizzata in un punto del rame del desiderio, e questo è il nono piazzamento mentale prima di arrivare a Shinè. Prima di arrivare al calmo dimorare abbiamo nove stati mentali, no? Dopo il nonno c'è Shinè, e questa è una mente che non ha più le caratteristiche del rame del desiderio, le caratteristiche di quella mente che abbiamo con queste fluttuazioni, attaccamento, avversione, no? Queste molto grossolane, queste manifestazioni molto grossolane della mente, ma una mente che è passata al di là dell'attaccamento a questi vari oggetti dei sensi. Quindi sono mente più sottile, che permettono lo sviluppo di queste qualità più sottili, perché la mente di equanimità, cioè la mente di amore e di compassione, sono qualità molto, molto più sottili. Quindi hanno bisogno di una mente abbastanza pacificate, più sottile per realizzarle. Però l'equanimità, diciamo che ha, se ovviamente si parliamo dell'equanimità incommensurabile, all'interno dei quattro incommensurabili, allora è la stessa cosa, ci vuole una concentrazione. Però lo sviluppo dell'equanimità non necessita una concentrazione. Una volta che quindi avremo equalizzato, uguagliato la nostra attitudine all'incontro di queste varie categorie di persone, entriamo nell'addestramento effettivo. E il primo è il riconoscere tutti gli esseri come la propria madre. Allora, all'interno dell'Amrim ci sono due realizzazioni molto difficili. Due, molto difficile. La prima è il percepire l'insegnante come il Buddha, quindi la devozione al maestro, molto difficile. E la seconda è riconoscere tutti gli esseri come la propria madre. Detto che c'è il Ma questo dipende delle impronte, dipende delle predisposizioni. Anche per certe persone, percepire tutti gli esseri come la propria madre. Non ci sono problemi, capito? Tutto questo dipende dalle impronte, dagli astramenti, delle vite passate, dalle connessioni che abbiamo con gli esseri. Ma altrimenti delle più difficili sono questi due. Allora, quindi qui bisogna riflettere, bisogna. Possiamo leggere per questo, sì, possiamo, quindi siamo alla pagina 59, mi sa, giusto? Istruzioni, sì, qualcuno può leggere la pagina 59, per favore? C'è una ragione. Dovrebbe incominciare in quel modo. C'è una ragione per cui è necessario addestrare la mente per mezzo delle istruzioni in 7 punti sulle sei cause e un effetto, nella tradizione del grande, nobile e glorioso Tisho. Consiste nei punti essenziali della sequenza, che sono come segue. Lo stato di Buddha sorge dalla mente dell'illuminazione, la quale sorge dall'attitudine straordinaria, che sorge dalla compassione, che sorge dall'amore, che sorge dal ripagare la gentilezza, che sorge dal ricordare la gentilezza e che sorge dal riconoscere che tutti gli esseri senzienti sono state nostre madri. Perciò riflettete in questo modo. Dato che non c'è un limite al samsara, anche le mie rinascite nell'esistenza ciclica sono limitate. Di conseguenza, com'è possibile che io non sia rinato senza essere stato concepito negli uteri di tutti gli esseri senzienti? Se riflettiamo su questo, la mente che riconosce tutti gli esseri come essere state nostre madri, che ha un'apparenza di essi come simile alla madre di questa vita, finirà per apparire senza che sia una fabbricazione da parte nostra. Grazie. Okay. Quindi avete visto qui viene presentato anche i 6 punti, i 6 cause in effetto dal punto di vista del risultato, quindi c'è una sequenza causale. La mente di illuminazione sorge dall'attitudine straordinaria, l'attitudine straordinaria sorge dalla mente di grande compassione, questa sorge dalla mente di amore. Anche se questa è presentata in quel modo, ma non c'è una sequenza vera e propria tra amore e compassione. Comunque, la mente di amore sorge dal desiderio di ricambiare la gentilezza, che sorge dal ricordarsi della gentilezza degli altri, che sorge dal riconoscere tutti essi come essendo la propria madre. Okay? Quindi, come si fa per riflettere, per arrivare a questa comprensione? Dobbiamo pensare che non c'è un inizio alla continuità mentale. Okay? Quindi questo. Normalmente avete fatto le vostre contemplazioni, avete analizzato, quindi siete arrivati a una certezza rispetto a questo, no? Visto che avete fatto i vostri compiti, siete arrivati a una certezza rispetto al fatto che c'è questa continuità mentale e quindi se c'è la continuità mentale c'è la base di imputazione per la persona anche da tempi senza inizio e quindi se prendiamo il samsara abbiamo vari tipi di vite, no? Quindi ci sono dei genitori, esistono nel reame degli esseri umani, ma esistono anche nel reame degli animali, quindi in questi, anche mi sa che anche nel reame dei preta c'è la nascita, forse non mi ricordo questo, comunque. Al minimo con gli esseri umani, a livello umano e a livello animale, c'è la nascita tramite il grembo materno o tramite l'uovo. Okay? Ci sono dei genitori che si prendono cura dei piccoli. Quindi visto che le proprie vite sono senza inizio, allora le vite umane o le vite nelle quali siamo nati dal grembo materno sono anche senza inizio, sono senza, cioè non c'è un numero, ok? E quindi in ogni di queste vite che abbiamo preso nascita come essere umano, che siamo nati quindi tramite il grembo materno, ovviamente abbiamo avuto dei genitori. Se ci chiediamo dove sono, quindi se abbiamo 100 vite, cioè 100 madre. 3 milioni di vite, 3 milioni di madri, c'è cioè un'infinità di vite, un'infinità di madri. Se ci chiediamo dove sono tutti questi esseri del passato, sono quelli che sono intorno a noi tutti i giorni, no? Gli esseri umani, gli animali che percepite, sono le madri del passato, ok? Allora, dovuto al fatto di aver passato allo stato intermedio e il processo di rinascita, okay, nel grembo materno c'è un trauma, okay, e non ci ricordiamo delle vite passate, non ci ricordiamo delle madri del passato, okay? Semplicemente il fatto, okay, lasciamo così questo, okay? Quindi sì, qualcuno, sì, la nostra madre di questa vita, sì, la madre di questa vita muore. Non smette di essere la propria madre, giusto? Quindi, nello stesso modo, tutte le altre madri delle vite passate non smettono di essere la propria madre, semplicemente perché non c'è più fisicamente. Quindi, questo è il modo di pensare. Quindi, vi potete. Allora, queste cose dopo, a livello individuale, dovete capire se funzionate meglio con il ragionamento o funzionate meglio con le visualizzazioni. Per esempio, certe persone funzionano meglio con la visualizzazione, quindi potete visualizzare, per esempio, no? Immaginate lo spazio e pensate che avete una vita senza inizio, quindi potete riempire lo spazio nelle vostre proprie rinascite passate, no? E poi vi fate questa domanda, che tutti questi corpi dove provengono? Provengono da una madre, no? Hanno avuto una madre e un padre, e quindi aggiungete nello spazio, riempite lo spazio di altri esseri che sono il padre e la madre. E questi, dove sono questi altri esseri? Adesso sono quelli che incontriamo nella vita di tutti i giorni, che dovuto al karma cambiano aspetti, no? Dovuto al karma cambiano aspetti, e dovuto anche a leggi di causa e effetto abbiamo varie relazioni più o meno piacevole con tutti questi esseri, ma tutte queste apparenze e tutte queste esperienze e relazioni che abbiamo sono dovute semplicemente a cause e condizioni, okay? Cause e condizioni. Quindi questo è il modo di pensare. Quindi, questo ci vuole una familiarità con quel modo di pensare. E allora il testo qui ci dice, no, che dalla misura di aver quel livello di aver generato questa mente, dice che se riflettiamo su questo, quindi bisogna familiarizzarci un bel po', la mente che riconosce tutti gli esseri come essere stati nostre madri, che ha un'apparenza di essi come simile alla madre di questa vita, finirà per apparire senza che sia una fabbricazione della parte nostra. Quindi questo è il tipo di attitudine. Il tipo di attitudine, quindi quando portate alla vostra madre, alla vostra mente, no? C'è un'emozione particolare, c'è un'emozione particolare. Quando questa emozione sorge all'incontro di tutti gli esseri, avete attualizzato quel tipo di livello. Quindi abbiamo la realizzazione di riconoscere tutti i propri esseri come la propria madre. Non è così facile. Per adesso siamo ancora a livello dove dipendiamo delle gentilezze degli altri in termini del loro discorso, eccetera, per avere apprezzamento o avversione, no? Quindi per passare a questo livello bisogna prima per passare dall'equanimità, è chiaro. E dopo, quindi, il pensare che tutti gli esseri sono stati la propria madre. E dopo c'è il ricambiare la propria gentilezza. Questo è il secondo, e c'è il secondo passo. Ricordarsi della loro gentilezza. Questo, cioè, non incomincio perché può essere lungo questa cosa. Quindi avete delle domande? Ci fermiamo qua. Avete delle domande? Ha senso o non ha senso queste cose? In un certo senso, prive di significato? Posso chiedere una cosa un Sì. po' dall'esterno? Il non discriminare, il vedere tutti come una madre, non diminuisce un attimo, cioè si omogeneizza un pochino la visione, non dico che diventa monocolore, però monoforma, e quindi questo non va a sminuire un attimo la visione stessa? Cioè, scusami, questa omogeneizzazione mi sta portando a una liquefazione della visione stessa, quindi a una perdita magari di carattere o di colore o di attrazione anche. No, no, è più l'opposto. Tu stai parlando dell'equanimità o del riconoscere tutti gli esseri come la propria madre? Sì, esatto, è quello della madre, Quella della sì. madre. Allora, no, perché diciamo, porti alla mente, questo comunque, questo è un passo, non è una finalità, ok? Questo è per dopo far sorgere un amore senza discriminazione per tutti gli altri. Quindi nel processo di questo è lo scopo, no? Di far sorgere amore e compassione imparziale per tutti gli esseri senza eccezione. Quindi come arrivi a generare quel tipo di attitudine? Semplicemente facendo che tutti gli esseri senza eccezione appaiano come attraente, piacevole alla tua mente e che senti vicinanza rispetto con gli esseri, no? Di solito abbiamo della pazienza, abbiamo dell'amore, della compassione per tutte le persone verso le quali ci sentiamo vicini. Adesso il problema è che noi siamo distanti con gli altri, abbiamo questa distanza, no? E quindi questo ci permette di ridurre la distanza con gli esseri e fare in modo che appaiano piacevole ai nostri occhi. E allora diventa naturale di avere un'attitudine di prendersi cura, di beneficiare, cioè di amore all'incontro degli altri. Quindi non penso che cioè in nessun modo la visione diventa, come dicevi tu, no? Omogenea, cioè Perde del carattere. intendo perfettamente questo punto di vista, lo faccio mio praticamente. Dal punto di vista della visione di vedere tutto in una stessa maniera. È Ah, su questo che nella ho visualizzazione, nel processo di nella visualizzazione. visione, sì, Ok, nel no, processo visuale. allora il processo di visualizzazione lo puoi utilizzare o non lo puoi utilizzare. Questo non ha importanza. Nel processo di visualizzazione puoi semplicemente visualizzare, non è che visualizzi tutte le persone come la tua madre, fisicamente, Sì. è con le qualità della tua madre, è questo. Non è che devi pensare che tutte le persone hanno la stessa apparenza, non è Però non questo. hanno per cui tutte le stesse qualità. Continuo un po' Hanno sull'omogeneizzazione dello stimolo. la stessa gentilezza, hanno mostrato perché perché il passo successivo è ricordarsi la loro gentilezza. Quindi dopo quello che succede è che prendi in considerazione la gentilezza dei genitori di questa vita e ti dici, ok, tutti questi altri, quando sono stata mia madre e mio padre, hanno avuto la stessa gentilezza nei miei confronti. È per arrivare a questo. Per arrivare a questo, che è il passo successivo. Una volta che siamo addestrati a percepire tutti gli esseri come la propria madre, dopo prendiamo, c'è un esame, un, un, un, un, un esame particolare, un'esaminazione particolare dell'attitudine della madre di questa vita ai nostri confronti in termini di varie modalità di gentilezza che ha mostrato, no? Di attenzione che ha mostrato, e dopo andiamo a considerare che tutti, senza eccezione, tutti gli altri, quando abbiamo avuto questa stessa relazione, hanno avuto questa stessa attitudine ai nostri confronti. Questo è lo scopo. Quindi questo è semplicemente un passo da fare. Lo vediamo se, alla settimana prossima non ci sono, sono a Palermo. Quindi ci vediamo. Quindi ci vediamo, ci vedremo tra 2 settimane. Sono altre domande? Ok, allora ci fermiamo qui. Ovviamente questo, stessa cosa, non le lasciate sulla carta, perché altrimenti. Questo adesso stiamo veramente entrando nel, cioè il modo di generare il Mahayana, queste cose, no? Quindi per cogliere veramente, per essere veramente in grado di capire e di essere in grado di avvicinare queste cose, bisogna che la mente sia addestrata dalle altre contemplazioni, altrimenti non c'è una base per poter, far sorgere queste attitudini. Questo non significa che, non dobbiamo che dobbiamo aspettare di aver generato gli altri due scopi per cominciare l'addestramento in questo, assolutamente no. Però è un processo organico, nel senso che le contemplazioni più in avanti sul sentiero si nutrono delle contemplazioni anche cioè, precedente, cioè è una cosa organica. Per questo nel 6 causa un effetto, il consiglio è di focalizzarsi punto per punto sull'ottenimento o si può fare tutto insieme Ok. anche se non si riesce a. Allora, quello che è buono è di mettere l'impronta di tutta la pratica a ogni sessione. Però, per esempio, per una settimana tu scegli o un giorno o una settimana, fai l'equanimità e poi fai le altre le porti semplicemente alla mente, pop, pop, pop, pop, una dopo l'altra. Okay? O aspetti di generare una sensazione particolare, di generare l'oggetto di meditazione, di diventare buono in una meditazione particolare e così dopo passi all'altra. Però fai sempre tutti i Tutti gli passi step. per mettere l'impronta completa del sentiero, della pratica. Per esempio, se sei arrivato a, non so, a generare l'amore per tutti gli altri, allora velocemente fai nel tuo addestramento, okay? Porti alla mente l'equanimità, dopo porti alla mente che tutti gli esseri sono la propria madre, dopo porti alla mente ricordarsi la gentilezza, porti alla mente e ricambiare la gentilezza e mediti sull'amore perché sei lì a questo stato. E poi velocemente compassione, intenzione speciale e bodhicitta, in quel modo. Quindi o scegli giorno per giorno di cambiare, o 2 giorni, una settimana, un mese, come vuoi tu. O finché diventi confortevole con una meditazione particolare, che riesci a generare l'oggetto di meditazione, okay? E allora puoi passare a quella successiva, okay? In quel modo. Questa è la stessa cosa per tutto il sentiero in generale, okay? Ecco perché si utilizzano, per esempio, quando facciamo la meditazione della mattina, si utilizzano dei testi come il fondamento delle buone qualità, no? Perché in 14 strofe avete tutto il sentiero, quindi si legge finché dove siamo arrivati nella nostra pratica, nel nostro esame dell'Amri, si ferma su questa strofa, si prende in considerazione l'argomento con più o meno dettagli, dipende dal tempo che abbiamo, e poi si ferma e si continua e si finisce la lettura. Così abbiamo l'impronta di tutto il sentiero ogni volta. Questo è il modo di fare. O possiamo anche, senza utilizzare una pratica particolare, fare una panoramica del sentiero, no? Si parta del modo di relazionarsi con la preziosa rinascita umana, ma poi qui possiamo inserire, siamo fortunati perché abbiamo il maestro, e come si va relazionato col maestro, poi c'è la morte e l'impermanenza, poi c'è la sofferenza dei rami inferiori, poi abbiamo. C'è il rifugio, c'è poi la legge di causa e effetto, poi possiamo, una panoramica. Allora dopo dipende, tutto va dosato, nel senso sì, passiamo già a mezz'ora a fare la panoramica, quando arrivi all'oggetto di meditazione sei già cotto, quindi non funziona sta cosa, quindi questo ti devi regolare. No? Devi regolare. No? E al minimo, se non abbiamo tempo, dobbiamo al minimo saper fare questa panoramica. Quindi lo scopo normalmente alla fine dei nostri incontri su questo testo, normalmente se avete fatto le cose in un modo, diciamo, ottimale, dovete essere in grado di fare una panoramica con i vari punti, le varie suddivisioni, di partire dall'inizio, andare fino alla fine, no? Essere in grado di compiere qualsiasi meditazione su qualsiasi argomento, no? Perché dobbiamo arrivare, questo è lo scopo, no? Dobbiamo arrivare almeno a questo, di avere la struttura completa dell'Amrim nel continuo. Quindi sappiamo che ci sono i tre scopi, ogni scopo è diviso in queste contemplazioni, queste contemplazioni sono divise in questi punti. Per esempio la morte e l'impermanenza, allora abbiamo i vantaggi di non meditare sulla morte, i vantaggi di meditare sulla morte e la contemplazione di 9 cicli, tre radice, tre ragione che arrivano a tre conclusioni. Dobbiamo conoscere queste cose, questo è un esempio, no? Preziosa rinascita umana, entità, 18 attributi, okay? Potenziale dal punto di vista temporale, ultime dal punto di vista di ogni istante, no? E poi abbiamo la rarità dal punto di vista delle cause, la rarità dal punto di vista del numero o dell'analogia e dal punto di vista delle azioni. Okay? Quindi dobbiamo arrivare a queste cose, perché altrimenti questi sono antidoti. Questi sono antidoti. Okay? Sì, non facciamo nostri questi antidoti, se non li teniamo nella nostra mente, quando siamo in momenti difficili nella vita di tutti i giorni, nella giornata, eccetera, non abbiamo niente da aggrapparsi. Non abbiamo niente da aggrapparsi, no? Quando vediamo che la nostra mente sta aggravando, no? Gli antidoti sono qui. Tutti gli antidoti a tutte le difficoltà che abbiamo, tutte le varie aggravazioni della mente dovute all'attaccamento, all'avversione, dovute al stress, cioè a vari problemi, difficoltà, possiamo trovare gli antidoti qua dentro. Però se lasciamo il libro così cioè dobbiamo, questa cosa diventare nostra, no? Quindi dovete, io quello che vi consiglio è di farvi uno schema, cioè prendete un foglio, vi divite, e vi fate lo schema, no? Le grandi linee. E poi questo dovete essere in grado di trattenere questa cosa, di farle, di essere in grado di fare le varie meditazioni sui vari punti, no? E dopo, no? Anche quando si va a un insegnamento, se avete la struttura dell'Amrim nella mente, non siete mai persi, mai persi. Perché adesso andate a, per esempio, un insegnamento, un giorno ricevete un insegnamento, vabbè, interessante, l'altro giorno un altro insegnamento, l'altro giorno un altro, però tutto sembra, no? Non vedete la cosa insieme, no? Non vedete la connessione tra questi varie. Invece, se abbiamo la struttura dell'Amrim ben chiara, okay? L'Amrim è come un comodino, no? Con i vari cassetti, no? Con i vari cassetti, dopo, se abbiamo questa struttura chiara, ogni volta che andiamo a ascoltare un insegnamento del Dharma, sappiamo esattamente in che cassette va questo insegnamento. Cosa c'è prima, cosa c'è dopo, qual è lo scopo di questo insieme, per quel tipo di persone fatto, per quel tipo di attitudine, quelle loro, cioè sappiamo esattamente dove siamo e qual è lo scopo di quello che stiamo ascoltando. Non siete mai così presi, cioè questo è il beneficio di conoscere bene l'Amrim. Questo è un beneficio secondario. Il primo beneficio è che cioè, abbiamo la capacità di pacificare la propria mente, eliminare l'ignoranza e prendere un po' di libertà piano piano rispetto a, a la, la cioè rispetto alla mente. Adesso siamo sotto il controllo della mente, no? La mente fa quello che vuole, pensa che quello che vuole va, e noi quello che facciamo è seguiamo, no? Infatti siamo un po' come dei cani, no? Il cane gli lanci un bastone, corri dietro. Quindi la mente sempre ci lancia dei bastoni, no? Abbiamo i bastoni dell'attaccamento, i bastoni delle avversioni, i bastoni dell'orgoglio, quello che volete. Noi corriamo dietro. No? Invece a un certo punto dovremo arrivare a essere come delle tigre, no? Le tigre, questo è lo scopo. Buttate un bastone a un tigro, vedete cosa fa? Si gira e vi salta addosso. Questo è che dobbiamo fare, no? Quando la mente dopo ci lancia dei bastoni, dobbiamo essere in grado di smontare quel meccanismo, no? Smontarlo, vedere cosa c'è dentro, cosa ci porta, che tipo di sofferenza porta quella cosa all'ignoranza che c'è dietro. Per il momento guadagniamo della libertà, perché la libertà, adesso pensiamo che la libertà no, è fare quello che vogliamo quando vogliamo. Questo, cioè, non è la libertà. La libertà prima del sentiero della visione non esiste. Noi siamo dei schiavi volontari. Schiavi volontari dell'ignoranza, dell'avversione, dell'attaccamento, no? C'è qualcosa di piacevole che passa, la mente se ne va. Questo è, non abbiamo neanche scelta, no? Qualcosa di spiacevole, la mente disturbata, non abbiamo scelta su queste risposte emotive. Perché? Perché siamo ignoranti, siamo dei schiavi. Quindi questo è il modo per riprendere un po' di autonomia sul proprio processo di pensare e su, sì, prendere autonomia rispetto anche alle varie risposte, no? Varie risposte. Siamo quello che ci dice, condizionati da altri, o sotto il potere da altri, siamo sotto il potere del karma, questo è chiaro. Questo è chiaro nel senso che non abbiamo scelta, non abbiamo la scelta delle nostre esperienze in termini di felicità o di sofferenza, questo sorgono come maturazione delle nostre azioni passate. Quindi questo diventa molto difficile di prendere controllo, questo è impossibile per adesso. Però piano piano quello che possiamo fare adesso in questa vita è prendere un po' di controllo, un po' di libertà rispetto alle afflizioni mentali. Questo piano piano. Questo è chiaro che non si fa in qualche mese, in 10 anni, cioè ci vogliono 30-40 anni di pratica. Dopo 30 anni di pratica eventualmente ci possiamo girare indietro e vedere che abbiamo fatto, questo dice Sua Santità, no? Dei piccoli progressi. Dopo 30 anni dei piccoli progressi, però questi piccoli progressi sono fantastici, sono, cioè, straordinari, no? Quindi la nostra mente è abituata in un certo modo da tempi senza inizio. Non so se possiamo immaginare da tempi senza inizio, no? È più di 3 eoni incommensurabile. 3 eoni incommensurabile è sempre a dopodomani. Da tempi senza inizio. Tempi senza inizio abbiamo creduto in queste apparenze, abbiamo seguito l'attaccamento, l'abbiamo rinforzato, abbiamo seguito l'avversione, abbiamo pensato che quel tipo di mente, quel tipo di oggetto, quel tipo di movimento mentale ci portava a un più grande benessere. Quindi questo meccanismo è così nostro, che sorge spontaneamente, no? Per esempio, le afflizioni mentali come l'attaccamento all'avversione sorgono spontaneamente, senza sforzo. Non c'è bisogno di analizzare le qualità di un oggetto per generare dell'attaccamento. Non c'è bisogno. Lo vediamo, bam, sorge. Questo è dovuto alla familiarità. La mente è neutra. La natura della mente è qualcosa di neutro, è luminoso, ok? E conosce. Quindi è luminoso nel senso che si conosce e è priva di contatto. Quindi non ha queste qualità, nello stesso modo, cioè riconoscere gli esseri come la propria madre, l'equanimità. L'amore, la compassione, queste sono qualità o attitudine mentale con le quali possiamo generare una familiarità tale che esattamente come l'attaccamento sorge rispetto a un oggetto piacevole, quel tipo di mente sorge quando incontriamo gli altri esseri. per lo stesso processo di familiarità. Cioè, lo stesso processo di familiarità. E questo che adesso abbiamo la sensazione, no? Che queste attitudini sono parte della nostra mente, non sono la nostra mente, ma infatti sono adventizie. Sono adventizie. E possiamo quindi decondizionare la mente e acquisire nuove abitudini che sono congruenti con un più grande benessere, con la felicità, che sono di beneficio, eccetera. Questo è solo un processo di familiarità, nient'altro. L'unica cosa che bisogna fare è darsi il tempo, estrarre nella nostra giornata, okay, un po' di tempo per pensare in un modo diverso, pensare in un modo diverso, contemplare queste cose con ragionamento, cioè pensare in quel modo, è l'unica cosa che è. Poi piano piano nuove abitudini si creano, piano piano si creano e diventano dopo spontaneo. Quando queste attitudini diventano spontanee, questa è una realizzazione. Facciamo le dediche. Quindi come di solito andiamo a dedicare di queste virtù che abbiamo generato per l'illuminazione di tutti gli esseri, per fare in modo che noi velocemente possiamo sviluppare delle qualità e quindi guidare tutti gli esseri a uno stato al di là del dolore. Andiamo a dedicare anche per la lunga vita dei maestri che i loro desideri si esauriscono e andiamo a dedicare anche per fare in modo che l'insegnamento del Buddha, in particolare l'insegnamento della Matsungkapa, dimorano a lungo in questa vita. Cendre si quanten jing yam sui, shabbe si te apandu den yu, na so jinye sambe gya wadi, adem dam dro wa kuna gambe, tiam ba jen so lo zan ramai, tembe nyam bo rindu sel je. Grazie e quindi ci vediamo tra 2 settimane. Grazie. A questo vi do le risposte la prossima volta che ci vediamo.